La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli. La storia di oggi nasce e cresce a Bologna. Si può dire che da questa città non si allontani mai, anche se il protagonista di questa storia farà infiniti viaggi e crescerà sulla spinta di numerosi momenti di rottura col passato. Il nome del protagonista di oggi è Maurizio Marzadori e per chi non è di Bologna è un nome come tanti, ma i bolognesi lo conoscono bene. Il suo posto, Fricandò, è forse più conosciuto di tante multinazionali dei mobili. In questo gigantesco luogo Maurizio ha accumulato la storia di intere generazioni. Ci sono i cappelli usati dalle ragazze yeye e ci sono le vasche da bagno usate dai nobili a inizio Novecento. Quella di Maurizio è una storia che vale la pena d'essere ascoltata. Prima di diventare antiquario è stato un insegnante di scuola elementare. La sua prima volta, la volta in cui la sua vita ha preso una direzione differente, è stato quando, a 40 anni, ha deciso di cambiare vita. La scelta del cambiamento è coincisa, o forse è stata determinata, dalla nascita della sua prima figlia. Voleva fare per lei, dice, la più bella cameretta del mondo. Io sono un antiquario e vivo a Bologna. Ho cominciato il lavoro da antiquario da grande, perché prima facevo il maestro di scuola e ho fatto per oltre 20 anni il maestro di scuola in situazioni un po' di frontiera, diciamo, in quartieri abbastanza emarginati della città. E poi a 40 anni questa passione sfrenata per la ricerca, per l'antiquariato, ho aperto la Fricandò, che è una ditta di antiquariato che da anni fa ricerca e così via. E quindi ha lasciato l'insegnamento, ha deciso di lasciare l'insegnamento? Sì, sì. Ma perché? È stata un'esperienza bellissima, poi fra l'altro questo momento, diciamo, parliamo degli anni attorno dal 68 al 77, erano anche anni particolari, si cercava di cambiare, si voleva cambiare il mondo, io ero di quelli che si è molto battuto per questo, conosciuto Don Milani, insomma, quindi, però arrivati a un certo punto, di un'esperienza di cui sono stato molto molto contento e soddisfatto, però mi è venuta questa passione per questo mondo nuovo dell'antiquariato, dove ogni giorno per me è come una caccia al tesoro, diciamo, quindi lo faccio con gran passione, insomma. Ecco, quindi lei a questo punto apre questa ditta di antiquariato a Bologna sempre? Sì, sì, a Bologna. Ecco, e come inizia, insomma, questa nuova impresa, questo nuovo lavoro, cosa comincia a fare, come va all'inizio questa impresa? No, l'impresa è partita bene perché mi divertivo a cercare, a fare le scoperte, quindi all'inizio logicamente non avevamo la preparazione anche culturale, teorica che abbiamo adesso, però è stato subito un lavoro molto divertente. Poi come mi diceva prima, proprio nel momento in cui ho cominciato questo lavoro mi è nata anche la prima figlia. Quindi è stato coincidente? Cioè il cambio di vita, diciamo, praticamente da lavoro coincidente, è nata dopo un anno, poco più di un anno, quindi ci sono stati tanti cambiamenti nella vita, tutti concentrati in questa fase, quindi in occasione della nascita della figlia, allora da buon antiquario, benché ancora allora alle prime armi, ho pensato che dovevo farle la camera più bella che qualsiasi bambina avesse mai avuto, insomma, una camera con pezzi di storici o di artisti, insomma, e quindi è partita questa ricerca anche. E la prima camera è stata poi anche uno dei pezzi più importanti che sono esposti in questa mostra, la camera del grande illustratore Antonio Rubino, che che poi, siccome i letti erano due, è servito per la prima figlia e anche per la seconda figlia che è venuta dopo 2 anni, insomma. Ma quindi comunque erano pezzi d'arte lasciati in una situazione di vita normale, cioè voi non stavate poi dietro alle bambine affinché non rompessero, non stessero, cioè era un regalo vero, non era un... Sì, no, lì sono stati usati, sì, io attualmente mi raccomandavo sempre, anche facevo le pulizie eccetera, però era la loro cameretta vissuta, insomma, ecco, quindi loro l'hanno effettivamente fin da piccole, e forse le dirò che qualcuna si è accorta di quello che aveva andando poi a scuola, quando la portavano in giro, perché poi c'era la cameretta, c'era tutto l'arredo, anche mi piace molto le cose anche futuriste, quindi c'erano anche dei quadri eccetera, quando in visita con la scuola a vedere i musei, dice: ah, ma io queste cose le ho in casa. E quindi insomma, come dice lei, cioè, sono venute su in quella atmosfera, diciamo. Quindi queste due, poi la seconda figlia ha avuto una stanza tutta per sé fatta ad hoc? No, la seconda ha avuto l'altro letto di Rubino, perché sono due i letti di Rubino. La terza figlia, che è venuta 10 anni dopo, quando la collezione era già partita di grande, ha avuto invece un'altra camera che è esposta in mostra, che è la camera della ditta Lenci, che è famosissima per le bambole. Però facevano anche raramente arredi, e quindi in questo caso l'artista che l'aveva disegnata era pittore Gigi Chessa, che appunto lavorava per la Lenci, sia per disegnare anche ceramica eccetera, ma anche per disegnare, per esempio, lampadari di cui abbiamo, e anche la cameretta in questo caso, insomma. Quindi di fatto tutte le cose che lei ha raccolto nel tempo e che ha dedicato alle sue tre figlie, adesso è possibile vedere. Quelle sono state la scintilla che ha incendiato la prateria. La citazione. Dopo, logicamente, è diventata una gran passione, poi ci siamo resi conto che anche sul piano scientifico si poteva fare una cosa molto seria, cioè praticamente tracciare una storia, quindi non solo pezzi di artisti, diciamo, che pure ci sono e sono veramente meravigliosi e importanti, ma una vera e propria storia del design, per cui la collezione che conta circa 800 pezzi, fra cui 400 mobili e 400 giocattoli di legno, traccia proprio una storia del design e dei mutamenti sociali della nostra società. Quindi la collezione parte dall'avvento dell'industrializzazione alla fine dell'Ottocento, metà fine Ottocento, con i primi pezzi in faggio curvato, e arriva fino ai giorni nostri. Da quel sogno, dal sogno di Maurizio Marzadori, a distanza di tanti anni è nata una cosa bella per tutti, un'installazione che resterà in visione alla Sala Borsa di Bologna fino a metà giugno. L'ingresso è gratuito, la mostra si chiama La Camera dei Bambini e gli stessi pezzi Maurizio li ha già portati al MoMA di New York. La prima volta. Questa è la storia di un ragazzo cresciuto a pane e ideali, cresciuto all'ombra di un sogno di benessere per tutti, un ragazzo che studia, si laurea, va a lavorare in un ospedale psichiatrico, incontra Don Milani e va nelle scuole, nelle classi dei figli del proletariato, come si diceva allora, e con quei bambini, grazie a quei bambini, impara la bellezza, incontra l'entusiasmo e si lascia andare al coraggio di coltivare nuovi sogni. Così Maurizio Marzadori, che di anni oggi ne ha 60, Santa, si ritrova ad andarsene in giro per l'Italia a cercare arte. Il suo sogno è creare un luogo a Bologna dove l'arte la puoi incontrare per davvero. Siamo ancora all'inizio, ma il sogno di quest'uomo tanto caparbio si sta realizzando a dispetto di tutto. La collezione parte dall'avvento dell'industrializzazione alla fine dell'Ottocento, metà fine Ottocento, con i primi pezzi in faggio curvato, e arriva fino ai giorni nostri. E non solo cose importanti, ma proprio anche pezzi che fanno capire questi aspetti, cioè anche pezzi di industrie. Senta, ma, sì. Le sue figlie adesso sono grandi? Quanti anni sì. hanno? Sono... Allora, la più grande è Laura Mardadori, che è una violinista, diciamo professionista, è diventata la sua professione, e diciamo che anche recentemente ha avuto un risultato importante, che ha vinto il concorso per un violino di Spalla alla Scala, quindi diciamo così è un punto di arrivo abbastanza importante. Sì. E anche le altre sono musiciste, quindi la Sara, che ha 2 anni di meno, ne ha 23, è violista e sta studiando a Salisburgo, e la piccola, che ha 15 anni, anche lei studia il violoncello e anche lei fa il liceo a Bologna, la va a scuola a Salisburgo, al Mozarteum, tutti e due al Mozarteum. Insomma. Come mai hanno deciso di andare fuori dall'Italia le sue figlie? Beh, diciamo che per quando arrivi a un certo livello anche di specializzazione, ci sono queste scuole internazionali che, fra l'altro, vincendo il concorso di accesso, sono gratuite, che danno danno molto, però diciamo le nostre figlie anche studiate anche in Italia, perché la piccola ha seguito il suo maestro a Salisburgo, le altre, Laura ha studiato alla Chigiana e alla Staufer con il maestro Accardo, insomma. Diciamo sì, c'è un percorso doppio, Italia, diciamo. Insomma, ecco. Sì, sì. No, ma era così una mia curiosità questa. Sì. Senta, la cosa che le volevo chiedere è anche questo. Cioè, lei nella sua vita è come se avesse vissuto più vite, no? Nel senso che è stato sì. maestro elementare, poi ha lasciato, è diventato antiquario, nel contempo diventa padre, e queste due cose le fonde insieme. Cioè, questa è un po' una chiave per vivere, nel senso che ho un po' l'impressione che lei non riesca a dire io faccio questo di lavoro e poi vivo questa vita, cioè, ma anche le cose in qualche modo si debbano mescolare, così o mi sbaglio? Ma sicuramente una delle, come dicevo prima, degli aspetti è che tutto questo, diciamo, questo tipo di vita è molto coinvolgente sicuramente, e quindi non ho mai fatto calcoli particolari, il lavoro lo faccio perché mi piace tantissimo, e anche la famiglia, ci sono sempre delle novità, ci sono sempre delle cose tutti i giorni, insomma non è sì, sì, non è una cosa decisa a tavolino. Né decisa da tavolino, né di routine, insomma, anche quando le ragazze ottengono dei risultati importanti, insomma è chiaro che è soddisfazione. È stato anche dal nostro punto di vista un sostegno, nel senso che quando si è deciso che avrebbero fatto loro, hanno deciso poi di una professione della passione per la musica, noi le abbiamo sostenute, non è che abbiamo detto no, fate intanto, pigliate un pezzo di carta diverso che vi dia la sicurezza, poi abbiamo sostenute in queste scelte di vita perché è la loro vita, la loro passione, insomma. Così come il mio lavoro è la mia vita, la mia passione. Senta, ma ci sono stati dei momenti in cui invece a lei qualcuno l'ha ostacolata dicendole ma no, ma cosa, lasci un lavoro per un altro, ti butti su una cosa che non... No, no, perché ho un carattere un po' terribile e quindi ho sempre fatto quello che ho voluto, diciamo, cercando sempre, come dico, di tenere presenti certi paletti come la famiglia, eccetera, però ho sempre fatto quel che ho voluto, quindi nessuno è mai, come le dicevo, da quando eravamo dal 68 in avanti, quindi è sempre stata una vita di cui non rinego niente, anche se mi rendo conto che certe idee adesso, viste adesso, possono sembrare un po' idealistiche, campate in aria, insomma, però eravamo anche molto più molto generosi allora, insomma, quindi anche adesso penso, perché stiamo cercando di fare delle cose anche con questa mostra che si sta facendo adesso, si fa con scarsissimi mezzi, grazie alle istituzioni che l'hanno sostenuta, la Sala Bossi, il Comune, la Fiera. Stiamo facendo una proposta alla città gratis, gratuita, nel senso che non si paga biglietto e tutti possono usufruire di questa proposta culturale, insomma, è anche bellissima da vedersi. Perché lei, diciamo, qual è la forza che trae in un periodo, immagino, di difficoltà anche per il vostro settore nell'andare avanti e nel fare addirittura una mostra gratuita? Ma diciamo che, come dicevo prima, non ho mai fatto calcoli, anche quando è nata la terza figlia, io avevo già 50 anni, e mi hanno detto va bene, non ci sia un posto il problema se ciò in casa, se ciò era opportuno o meno. Quindi qui il Comune ci ha proposto di esporre questa collezione, almeno i primi 50 anni del Novecento, che visto che due anni fa una serie di pezzi erano stati esposti al MoMA a New York, la curatrice era venuta a Bologna a sceglierseli, a guardare tutta la collezione, e allora quando il Comune ha detto facciamola anche a Bologna, per me è stato come invitarmi a nozze, diciamo, ci sono buttato dentro con tutte le mie forze, anche perché poi c'è un'ulteriore idea che ci sta dietro, un ulteriore sogno, che è quello di poter fare a Bologna un museo dell'infanzia, quindi partendo anche da questa collezione, ma anche con una sinergia di forze, se riuscirà, questo potrebbe essere una cosa per me meravigliosa. Quindi lei alla fine, a guardarlo, questo percorso è arrivato a un punto in cui si riuniscono anche queste vite, la vita dell'insegnante, quindi a contatto, sì, con i bambini e l'amore. Sì, per... probabilmente questa mia grande passione appunto per l'infanzia e l'insegnamento, perché prima avevo lavorato qualche anno in un ospedale psichiatrico, poi come dicevo ho conosciuto Milani, dopo mi avevo spinto a occuparmi dell'infanzia, mi diceva vai a insegnare in un carcere, in un doposcuola, insomma, e quindi questa spinta effettivamente è stata, diciamo così, molto, molto, molto importante. Ed è così, tra sogni che si infrangono e sogni che decollano, che procede la vita. Quella di oggi è la storia di un uomo che nel corso di una vita intera ha realizzato un sogno che farà bene anche a noi, il sogno di un luogo dove ammirare la bellezza. La prima volta termina qua, vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento sempre domenica alle 13.30. Potete riascoltarci in podcast, potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Ciao a tutti, buona domenica da Cristina Carpinelli. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore, e in sede una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore.